24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paolo Piacenza a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. È sempre la situazione della Grecia a essere in primo piano, mentre l'Europa discute sul coinvolgimento dei privati nei fondi di salvataggio. Ad Atene il governo presenta un rimpasto e chiede la fiducia, mentre il rischio default cresce ancora. In evidenza anche il futuro della BCE, il nodo rifiuti a Napoli e una classifica europea delle spiagge del vecchio continente. Poi l'UEFA, che con Platini chiede ai calciatori di garantire pulizia nel calcio, e l'ultimo film del regista francese che Chiche, Venere Nera. Partiamo dunque dalla Grecia. Il servizio. Per il salvataggio di Atene ci sarà un intervento in due tempi. Domenica prossima bisognerà dare il via libera alla tranche, la quinta, da 12 miliardi di euro, e l'11 luglio invece decidere sulla partecipazione o meno del settore privato al secondo intervento di aiuto per Atene. Lo ha detto il commissario agli affari economici e monetari Ue Olli Rehn, lanciando quindi un appello ai 27 per superare le attuali divisioni. Ma il fondo monetario si dice più cauto e pronto sia a proseguire il proprio supporto alla Grecia, ma a condizione che Atene prosegua sulla strada delle riforme. Atene intanto politicamente è nel caos. Il premier greco Papandreou ha fatto un appello all'unità del paese e, parlando ai deputati del suo gruppo socialista, ha chiesto appunto di fare uno sforzo. Il problema è che domenica prossima Papandreou presenterà un rimpasto di governo e martedì ci sarà il voto di fiducia. Il momento è drammatico. La vicenda greca o esce dal tunnel o rischia di trasformarsi in una tragedia. Vittorio D'Arold, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il confronto tra i paesi europei sulle soluzioni per evitare il default greco vede in primo piano la Germania, e l'analisi di Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, indica come cruciale l'atteso incontro di oggi tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy. La Germania sta giocando una partita molto pericolosa, evidentemente, perché il governo ha deciso di imporre ai suoi partner e alla Commissione e alla Banca Centrale Europea il coinvolgimento degli investitori privati in questo secondo pacchetto a favore della Grecia. Ha deciso di farlo il governo federale perché si trova ad avere una maggioranza democristiana liberale abbastanza debole su questo punto. Molti liberali e anche una fetta consistente dei cristiano-sociali vorrebbero assolutamente che i privati partecipassero in un modo o nell'altro. Il problema è come farli partecipare. La Banca Centrale Europea è pronta ad accettare una partecipazione volontaria degli investitori. La Germania avrebbe il desiderio di fare qualcosa in più. Ho l'impressione che in queste ultime ore la Germania sia un po' tornata indietro sui suoi passi, si rende perfettamente conto che un fallimento greco sarebbe estremamente negativo per la zona euro e per l'economia tedesca inevitabilmente, perché questo scatenerebbe un effetto contagio e la prima economia a farne le spese sarebbe probabilmente la Germania. Evidentemente siamo di fronte a un braccio di ferro. Olli Rehn sta dalla parte Banca Centrale Europea, Jean-Claude Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, cerca di mediare tra la BCE e la Germania. La Germania può contare sull'appoggio di alcuni paesi, l'Olanda, la Finlandia, l'Austria, per esempio, quindi siamo di fronte a un braccio di ferro. Ho l'impressione che ci sarà un momento importante quando il presidente Nicolas Sarkozy andrà a Berlino per incontrare il cancelliere Merkel. Forse quella sarà l'occasione per trovare un compromesso franco-tedesco che possa essere accettabile sia agli altri partner europei che alle istituzioni europee, in particolare la Banca Centrale. Tensioni restano intanto sui mercati e non riguardano solo la Grecia. Il premio di rendimento che i BTP italiani pagano rispetto ai bund decennali tedeschi è volato oltre 200 punti base, segnando il massimo dallo scorso 11 gennaio. Lo spread decennale viaggia a livelli record per la Spagna, 280 punti dagli equivalenti titoli tedeschi, Grecia 1490 i punti di distacco, Portogallo 790 e Irlanda 862 punti. Una situazione che tiene le borse europee in territorio negativo. A fine giornata Londra meno 0,76%, Parigi meno 0,38%, Francoforte meno 0,07%, negativa anche Milano Piazza Affari, dove l'indice FTSE All Share ha chiuso a meno 0,37% e il FTSE MIB a meno 0,33%. La paura di un fallimento della Grecia si abbatte ancora sul settore bancario in borsa e in particolare sugli istituti di credito che hanno in corso importanti ricapitalizzazioni. Monte dei Paschi di Siena, che lunedì avvierà un aumento di capitale da oltre 2 miliardi, ha perso a Piazza Affari quasi il 4% in attesa dell'annuncio sul prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni. Malumori anche su Popolare di Milano, meno 2,8%, presa tra la ricapitalizzazione da 1,2 miliardi da varare a fine mese e i rilievi di Banca Italia su sofferenze nei crediti e norme statutarie da cambiare. Seduta da dimenticare infine per il mondo Fiat alla vigilia dei dati sulle immatricolazioni di maggio. Fiat Industrial tocca i minimi storici e cede il 3,5%, Fiat SPA il 2,4%. Da Radio Core, Andrea Fontana per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro passo verso un cambio della guardia alla BCE. Lorenzo Binismaghi, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, si è recato a Palazzo Chigi sollevando l'attenzione dei cronisti. Il premier Silvio Berlusconi ha spiegato così il senso dell'incontro con l'economista italiano. Noi abbiamo, sì, lei ha visto Binismaghi, con cui io e il dottor Letta abbiamo un appuntamento adesso. Stiamo parlando del fatto che per ottenere da parte anche della Francia l'assenso al nostro candidato per la Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ci sia nella Banca Centrale Europea la presenza anche di un direttore francese, che dovrebbe avvenire con le dimissioni di Binismaghi dalla banca stessa, ed è su questo che stiamo lavorando. Voltiamo pagina. La Commissione europea si è detta ancora molto preoccupata della situazione dei rifiuti a Napoli, ma non ha ancora assunto decisioni sulla procedura di infrazione. Così il commissario dell'Unione europea all'ambiente Janez Potocnik. Intanto a Napoli il neosindaco ha presentato il nuovo piano rifiuti che dovrà essere sottoposto all'Europa. Ora parliamo di spiagge. Le migliori in Europa sono quelle cipriote, subito dopo la Croazia. Per quest'anno non cambiare. Promosse 9 spiagge europee su 10, anche se potrebbe essere l'ultimo anno. Dal 2012 infatti scatteranno parametri più rigorosi per i controlli ambientali e quelli a rischio bocciatura potrebbero essere una su 3. Ma intanto per quest'anno è tutto sommato positivo, seppure con molti distinguo, il quadro curato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. In cima alla classifica dei tuffi garantiti, Cipro, col 100% delle spiagge in regola. La Croazia, 97,3%, Malta, 95,4%. La Grecia, che di problemi ne ha ben altri, vede promosse il 94% delle sue spiagge. Fin qui le luci, ma ecco le ombre. A peggiorare sono i parametri che pure garantiscono la promozione. Come dire, molte promosse, ma con riserva. Ecco perché, con parametri più rigidi, il prossimo anno potremmo scoprire un'Europa meno blu. A cominciare dall'Italia. Figura quest'anno al 16° posto, con poco più di 4 spiagge su 5 a livello di sicurezza e 3 su 4 che arrivano ai valori guida. L'acqua pulita è una risorsa senza prezzo e non dobbiamo darla per garantita, conclude il rapporto europeo. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo scandalo calcio scommesse preoccupa anche la UEFA, che sta studiando provvedimenti per garantire la pulizia del movimento calcistico europeo. Lo ha ribadito il presidente UEFA Michel Platini. Ascoltiamolo. 3 anni fa o 4 anni fa ho chiesto una pulizia del sport europeo. È difficile a fare, dunque noi lavoriamo adesso con le paese per avere un procuratore o qualcosa della giustizia che segue le cose del calcio uno per uno, e così possiamo difendere me. Chi salverà il calcio sono i calciatori, chi usa il calcio sono i calciatori. Noi dobbiamo dire a tutti i calciatori: attenzione, fate attenzione, altrimenti voi la carriera sarà finita tutto il calcio per voi. Tolleranza zero su queste cose. Esce oggi al cinema, dopo mesi di attesa, uno dei film che più hanno fatto discutere all'ultima mostra del cinema di Venezia, Venere Nera di Abdelatif Kechiche, e il regista franco-tunisino. È la storia vera, cruda e drammatica di Sartie Bartman, la Venere Ottentotta, esibita come un'attrazione nelle fiere all'inizio dell'Ottocento. Abdel Kechiche al microfono di Marta Cagnola. J'ai vu dans son histoire quelque chose qui était. Ho visto nella sua storia qualcosa di molto contemporaneo. La sua storia è finita molto recentemente, con il suo funerale tardivo e riparatorio avvenuto nel 2002. E poi è una donna contemporanea, nella sua posizione di donna e di straniera, tanto più nera. Il disprezzo nei suoi confronti è qualcosa che viviamo ancora oggi nel quotidiano. C'è qualcosa di molto contemporaneo nel percorso di questa donna. Il y a quelque chose de très contemporain dans le parcours de cette femme. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Piacenza. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.